water, I intend to hold it with my lips. Feeling the buzz of some sounds going through my body and down my clips. Oh, I do, I feel well, I can't explain. But something is getting control on me. I don't know what happens to my brain. I just wanna hold it. Quarta ed ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco dei Silenzi dal titolo The Secret Inside. Come si chiamava questa canzone? Questa era Addicted. Quali saranno gli obiettivi futuri e prossimi della band? Registrare il prossimo disco, infatti abbiamo già parecchie, sì, di già, perché queste canzoni sono già abbastanza datate, in quanto abbiamo messo molto tempo per registrare il disco a causa tanti problemi, insomma. E tante difficoltà più che altro. Il nuovo CD verrà registrato quest'estate, quindi abbiamo già in cantiere parecchi pezzi e che ci stiamo lavorando su. Siamo al quinto brano, cosa scegliete di far ascoltare? Give Me My Drink. Tonight Come sempre scorre e noi siamo in chiusura di puntata. A voi ricordo i contatti per le segnalazioni. Scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it e ricordo il sito www.radiorcs.it per info su Radio RCS e Rock Legends, oltre che la possibilità di ascoltare la nostra radio in streaming attraverso i vari player. Un grazie Silenzia per la partecipazione, buona fortuna per il vostro album e a questo punto la parola per i contatti web ed email per info sul vostro disco e un calendario di live. Ci trovate su Facebook, basta cercare Silenzia. Il nostro MySpace è www.myspace.com/silenzia. Inoltre abbiamo l'email se volete scriverci, silenzia@live.it. Per quanto riguarda i nostri prossimi live, abbiamo il 18 febbraio il concorso Rock Targato Italia che faremo al Greenwich, un locale di Curtarolo di Padova. Brano per chiudere questa serata. L'ultimo brano è, si intitola Dentro di te, è l'unico brano scritto in italiano praticamente, è un brano introspettivo dalle sonorità molto morbide, abbiamo fatto un esperimento appunto con l'italiano che sicuramente ripeteremo anche nel prossimo disco. Gianluca e gli Silenzia vi salutano, noi ci risentiamo la prossima settimana quando avremo ospiti Super Lovers, formazione rock di Ravenna, che ci presenterà il suo nuovo disco dal titolo On the Road to You. Ciao! Mani che tu non hai mai sai.